Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Eccoci qui, buona domenica, sono le 10:06, riposo del guerriero in diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo, ma come sempre, prima i vari numeri che servono per raccontarci la vostra esperienza. Ovviamente siamo qui e quindi oggi il riposo del guerriero si occuperà di viaggi. Allora, io inizierei come prima cosa raccontandovi come sempre che alle 11:30 c'è la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Il mistero in 24 minuti comincia appunto alle 11:30 circa, dovrete arrivare alla soluzione ascoltando gli indizi musicali. Il primo indizio è questo. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto, e più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Ma partiamo da 1000 euro. Per prenotarvi potete farlo da subito 800 24 00 24. E parliamo invece del riposo del guerriero di oggi in diretta qui dalla BIT. Come ho detto, siamo al padiglione 3, e quindi il padiglione dedicato all'Italia, e oggi parleremo di viaggi, ma viaggi che significano soprattutto imparare. Quindi la puntata si intitola Viaggiare, imparare, sono due cose che stanno molto bene insieme, è un matrimonio direi perfetto, e vedremo com'è possibile viaggiare aggiungendo qualcosa di più. I vostri messaggi anche per capire voi cosa avete imparato viaggiando, al di là di vedere le cose, quello è ovvio, però spesso anche quando si viaggia è possibile acquisire qualcosa di completamente nuovo che riguarda anche la propria esperienza personale. I vostri messaggi al 349 238 6666 oppure sulla pagina di Facebook Il riposo del guerriero. Tanti ospiti come al solito, ma prima, per iniziare, sentiamo i Dig Dig. Volevo portare l'amore nel mondo, ma penso un paese di molti anni fa. Senza soldi in tasca, torno ancora verso casa e va capito cosa conta di più. Davanti alla sua porta c'era lei che lo aspettava, tutto come prima e non chiedeva di più. Ho voluto iniziare con Viaggio di un poeta, perché insomma viaggiare significa anche essere poeti dentro, probabilmente anche col pensiero, almeno io la vedo così. Isabella Pillolo, ciao, benvenuta, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo con te e cominciamo con la tua storia, perché tu sei, a parte il tuo mestiere, adesso lo raccontiamo tra pochissimo, però nasci come viaggiatrice, immagino. Ovviamente come grande curiosa del mondo, quindi il viaggio è molto relativo, no? Il viaggio può essere anche qua, il viaggio è la vita di tutti i giorni, e viaggiare in giro per il mondo ti aiuta soprattutto, questo credo che poi si impari viaggiando, a viaggiare tutti i giorni, quindi a guardare le cose da un altro punto di vista, per non rimanere comunque anche fossilizzati, legati a ritmi frenetici, tutto ciò che a volte ci porta a lamentarci, no? Ma di che ci lamentiamo? Stai dicendo che viaggiare rilassa in generale? Viaggiare dovrebbe rilassare, dovrebbe proprio rallentare anche un po' i ritmi e far vedere il bello della vita, no? Perché a volte si ha questa idea dell'evasione nel viaggio, che necessariamente altrove si sta meglio. Il viaggio è esattamente, credo sia l'esperienza che aiuta a vivere poi meglio qui. Quindi noi che per esempio accompagniamo per il mondo persone e a volte viviamo anche con loro proprio esperienze dirette giorno dopo giorno, il valore più grande è quello che poi riporti a casa, no? Il viaggio lo metabolizzi molto spesso quando ritorni e lo metabolizzi anche sul lungo termine. Ecco, senti, proprio su questo, allora intanto Isabella si occupa, lavora per Earth come terra. Esatto, se no sembra cuore, cultura e natura, esatto. Sottotitolo più facile perché è italiano. E tu di cosa ti occupi in particolare? Io mi occupo di prodotto, mi occupo di seguire, anche di promuovere, al di là del realizzare, di un lavoro anche costante assieme ai miei colleghi, ai miei collaboratori, alla direzione di Earth che nasce da un'impronta proprio di viaggiatori, di persone curiose. Per esempio Earth nasce dall'esperienza personale dei due soci fondatori, Bruno e Antonio, che nell'89 sono partiti con una Lecco Pechino, no? Noi siamo a Lecco, quindi nasce proprio da un'esperienza di voglia di conoscere. No, scusa, rido perché è soltanto raccontata, cioè se uno sente solo questa frase ride. Perché siamo a Lecco? No, perché dà un altro senso, esatto. Vabbè, io non ho notato, ero via così nel mio pensiero, pensando così. Tu mi porti su canali di pensieri molto istintivi e io parlo. E quindi ecco, questo, no, è proprio la gestione, l'organizzazione, le persone che lavorano in Earth sono molto legate al viaggio per passione, e quindi ne abbiamo poi con loro hanno creato questa azienda, e per noi che collaboriamo con loro è un'opportunità per mettere proprio a frutto quello che è anche la nostra passione. Ecco, tu dicevi che quando tu viaggi poi si torna, si metabolizza il viaggio una volta ritornati. Secondo te, quando si viaggia, il fatto di sapere di ritornare fa cambiare molto il punto di vista e quindi il modo di approcciarsi dipende, al viaggio? Dipende molto, no? Ci sono persone che partono purtroppo con l'idea di dire ho fatto questo, ho fatto quello, come se fossero delle famose bandierine, sì. No? A volte è un approccio, nuovamente, un modo di pensare, perché è un pensiero comune, no? Il nostro modo, per esempio, di realizzare viaggi in paesi, in aree, noi ci occupiamo di Sud America, di India, di aree malayane principalmente, un po' di Asia, un po' di Africa, offre l'opportunità di incontrare persone che poi fanno un viaggio di valore. È un viaggio culturale, un viaggio improntato alla conoscenza dei paesi, delle culture, delle diversità, della natura, no? Quindi di conseguenza, anche portandoli in viaggio, le persone cambiano, no? Quindi questo tipo di esperienza poi trasforma anno dopo anno nelle loro esperienze persone che non dicono più ho fatto, partono con un'idea di conoscenza, di curiosità. Non credo che ci sia tanto la consapevolezza del ritorno quando ci sia la voglia di organizzare, di quindi, partire. Dici, in questo caso questi viaggi rappresentano un'esperienza talmente forte per cui quando sei là pensi di stare là per tutta la vita, in quel momento, voglio dire, non stai pensando più a ritornare nella tua casa. È molto soggettivo, non si può dire, perché per fortuna siamo tutti molto diversi. Ci sono persone che, per esempio, se parliamo di Sud America, che è una parte del mondo a cui io sono molto legata perché ci ho vissuto, perché comunque è la parte del mondo che io conosco, meglio, le persone ci tornano. Diciamo che noi abbiamo anche un approccio di comunicazione, noi non siamo un'organizzazione banalmente, pensiamo di essere un po' anche un'opportunità, no, per le persone, per avvicinarsi a dei mondi. E quindi fanno un viaggio e magari poi ci tornano. Ecco, poi vediamo infatti perché quindi si torna. È andare e tornare, no? È andare e tornare, andare e tornare. Sì, farlo un po' proprio alla fine, fa parte della propria vita. Il riposo del guerriero. Isabella Pilono stava raccontando la sua esperienza in Sud America, una delle tante che ha fatto. Quante volte sei stata in Sud America? Tantissime. Io sono 10 anni, ho vissuto 9 mesi ogni anno per il ruolo che ho all'interno di Earth. Mi sono recata per tempo continuato, un mese e mezzo per l'alta stagione. Questo è un servizio, è un modo comunque che noi ogni anno abbiamo per seguire quando è il periodo in cui i nostri clienti viaggiano con grandi numeri. Quindi significa ovviamente avere un pezzettino della tua vita, no? E quindi ce l'ho io, come ce l'hanno i miei colleghi, certo. E quindi per questo, no? Un paese non lo si conosce con un viaggio, bisogna avere delle radici, e delle radici che si creano poi con i rapporti. Ecco, poi parleremo di questo, cioè del vostro modo di far avvicinare i clienti alle radici del posto, no? Quindi avvicinare proprio la cultura nel vero senso della parola. Intanto volevo salutare Barbara Bernardini, buongiorno Barbara. Pronto? Barbara? Sì, sì. Eccoci qua. Sì, adesso, ecco, ecco. Adesso sì. Buongiorno Barbara. Buongiorno. Responsabile dei corsi di editoria e scrittura Minimum Fax. Perché i vostri viaggi invece servono a imparare nel vero senso della parola? Sì, ma guarda, io sento noi facciamo dei corsi che sono dei veri e propri viaggi, tipo come extra rispetto all'attività formativa abituale, chiamiamola così. Per esempio nel 2010 abbiamo organizzato insieme ad altri partner la fattoria degli scrittori a Pollica, in provincia di Salerno, che è stata un'esperienza abbastanza forte, quindi 7 giorni chiusi, tra virgolette, in una fattoria in cui questi aspiranti scrittori lavoravano veramente a stretto contatto con altri scrittori, con editor. In quel senso il viaggio era un modo anche per... quindi non avevano possibilità di vivere solo all'interno della fattoria e quindi erano obbligati a scrivere tutto il tempo, una sorta, esatto, di shining, per intenderci. Esatto, era una cosa, per questo ti dico, molto forte. Nessuno ha scritto il mattino a loro in bocca, vero, spero? No, per fortuna no, altrimenti sarebbero scappati tutti gli altri, forse. No, invece, a parte gli scherzi, ma è andata molto bene perché comunque c'era, tra virgolette, un po' la costrizione voluta, attenzione, voluta, certo, cioè, la scelta. Certo, ma c'era una sorta di vincitore anche alla fine, oppure no? C'era una sorta di vincitore, però poi alla fine in realtà sono stati pubblicati un po' tutti, quindi diciamo il vincitore doveva essere pubblicato, però poi alla fine sono stati pubblicati un po' tutti, per cui siamo stati... c'era abbastanza competizione, però poi alla fine insomma c'è anche collaborazione. Tutti premiati. L'età dei partecipanti qual era più o meno? Se ce n'era veramente è abbastanza disparata, nel senso che anche l'anno scorso noi per esempio abbiamo replicato una cosa anche in realtà un po' diversa, perché durava di meno, erano 3 giorni a Perugia con Giorgio Vasta, e anche lì in generale un po' in tutti i corsi di scrittura si va dal giovanissimo di 20 anni alla persona invece che magari ha 60 anni e si è allontanata dalla scrittura per tutta una vita, per metà della sua vita, e poi però sceglie appunto magari un'esperienza un po' più forte, così proprio di evasione dal quotidiano, per andare proprio fuori. In questo senso forse è forte l'idea del viaggio per i corsi di scrittura. Certo, cioè, Barbara... l'idea proprio di andare via dalla vita quotidiana che magari invece ti ha portato ad allontanarti. Sì, e poi riprendere anche una passione, e anche per sé, perché a scrivere si può e si deve, anzi per chi ama farlo tutta la vita, nel senso che certo, è una cosa che porti sempre con te. Barbara, so che in progetto ci sono altre possibilità, adesso concretamente in questo momento state valutando i posti, e per potersi informare come si può fare? Guarda, direttamente secondo me dal sito, che è il sito di Minimum Fax, c'è una sezione proprio dei corsi in cui aggiorniamo abitualmente, insomma abbastanza regolarmente, tutte le iniziative che ci sono, perché insomma ti dicevo, queste del fare il corso intensivo fuori sono delle cose un po' extra rispetto a quella che invece è l'attività più abituale, che sono i corsi di scrittura, i corsi di editoria, che invece ci sono tutto l'anno. Certo. E che magari sono un viaggio invece in un mondo un po' diverso. Barbara, poi... secondo te, scusami, il valore aggiunto del viaggio qual è rispetto al corso in sé? Secondo me quello che ti dicevo, cioè l'idea di viaggiare e quindi andare via dal tuo posto abituale, cioè dal posto dove vivi, eccetera, ti dà un po' quell'idea di riuscire a riaprire una finestra che magari hai chiuso. Perché magari o hai chiuso o non hai mai aperto, nel caso dei giovanissimi per esempio, perché poi fare lo scrittore è un po' sempre il sogno nel cassetto, che viene spesso riposto nel cassetto, per cui riuscire a ricavarsi una finestra che sia completamente fuori dalla vita quotidiana e fuori anche fisicamente, quindi in un altro posto, può essere un modo per per ritornare appunto a mettere le mani su quello che è un sogno. Poi certo, la cosa importante, come diceva anche la persona prima, Isabella, è anche riportare a casa quello che hai fatto, perché poi se questa è solo un'evasione, ok, finisce lì, ma se una volta che invece hai preso il via, tra virgolette, ritornando a casa riesci a allacciare i rapporti con la scrittura, eccetera, quella è la cosa importante. Assolutamente, poi... sì, è così, e adesso noi vedremo invece come è possibile allacciare i rapporti con le persone che vivono negli altri paesi. Grazie Barbara Bernardini, grazie. Buona domenica. Grazie a te, grazie a tutti, buona domenica. Minimum Fax, vi ricordo. Continuiamo a parlare invece con Isabella Pillolo. Isabella, lo stavamo dicendo, nei vostri viaggi, non si viaggia soltanto, ma si conosce, nel vero sì. senso della parola. Quindi il vostro tentativo è quello di avvicinare i viaggiatori alla gente di lì. Noi siamo un tour operator, quindi un'organizzazione che offre l'opportunità a tutte le persone di vivere un'esperienza, di conoscere aree e paesi che noi trattiamo e che noi conosciamo. Diciamo un po' la nostra caratteristica è quella, anche in un circuito classico, della persona che per la prima volta si approccia, no? Anche un viaggio, come diceva prima, non ricordo Barbara. Come Barbara, persone che magari che non si muovono, che si muovono per la prima volta, magari consentire di realizzare, perché poi il viaggio è un sogno, no? Innanzitutto, il desiderio di vedere una località, di vedere un famoso posto tanto rinomato, eccetera, eccetera, però non solo vedere, conoscere, perché poi lo stesso circuito tu lo puoi vivere o correndo o in modo ovviamente un po' massificato, oppure con una sorta di lascia passare, che è una persona in loco che sappia raccontarti di cultura, di monumenti, ma che sappia veramente metterti in contatto con la realtà locale. Quindi questo è quello che noi cerchiamo sempre di fare, quindi non significa necessariamente dover vivere un'esperienza di viaggio con la V maiuscola, con viaggi spedizioni in fuoristrada o in aree del mondo così particolari. Che sono quelle, no? famose cose che uno fa perché dice io l'ho fatto, no? Ma ecco, no, per fortuna non tutti. Ecco, no, appunto, noi... dico invece l'approccio, esatto, esatto. Può essere anche diverso. Anzi, è proprio questo, cercare di dare una sorta un anello, di congiunzione con... Quando si viaggia purtroppo si ha poco tempo, no? Sì. Poi noi trattiamo ovviamente paesi anche lontani. Allora, avere una guida, un tour leader, un referente locale che ti accompagna a casa sua e non ti vuole solo far vedere tra l'altro le cose dal finestrino, ti vuole far capire. Poi dipende, noi per esempio proponiamo viaggi individuali o viaggi di gruppo, per noi gruppo sono 10-15 persone. Quando accompagniamo di solito noi o abbiamo collaboratori che sono esperti di culture buddiste, per esempio, alcuni amici archeologi, quindi che danno il valore aggiunto. Se no usiamo le persone locali che con il nostro vivere a stretto contatto, quindi noi viaggiamo, quindi ci spostiamo spesso, sappiamo chi sono, sanno anche che cosa noi vogliamo, no? offrire al nostro cliente, e quindi hanno anche questo approccio, è molto piacevole, è molto interessante, quindi sono persone locali, quindi che parlano magari la nostra lingua, quindi ovviamente questo è importante, e che quindi accompagnano le persone a conoscere, quindi a conoscere tutto quello che uno può leggere anche su una guida turistica. Sono tanti approcci, no, al viaggio. Sì. Allora io per esempio, se posso fare questo commento, sono tutto sommato molto contenta di questa edizione BIT. Noi siamo presenti ovviamente in BIT, abbiamo uno stand al Padiglione Mondo, abbiamo realizzato, che è un po' nella nostra caratteristica, questa mostra fotografica dell'Equistage, no? Il rapporto dell'uomo con l'acqua, in collaborazione a Parallelo Zero, che sono questo gruppo di fotografi molto bravi che fanno reportage di viaggi. Ci stanno arrivando sempre di più persone, ieri soprattutto, che era aperto al pubblico, interessate al viaggio, e a volte c'è questo stereotipo che il viaggio organizzato ingabbia. Ecco, infatti di quello volevo, no? chiederti, del viaggio organizzato che spaventa. Esatto. Quindi fermati un attimo, Isabella, c'è qualche minuto di pubblicità e poi abbiamo un ospite e poi continuiamo a parlare con te proprio di questa cosa, ovvero della paura, paura. Del viaggio organizzato. Io condivido, Sì, anche perché uno viaggio organizzato pensa a determinate Bravissimo. Cose. Esatto. Ma può essere anche altro. Il riposo del guerriero. sempre in diretta. Scusate, rido, c'era questo fischio strano ma è curioso perché era diretta ovviamente qui dalla BIT di Milano al padiglione 3, il nostro, Borsa Internazionale del Turismo. Stiamo parlando appunto di viaggi e viaggi che possano insegnarci qualcosa da tanti punti di vista. Luca Gallerano, buongiorno. Buongiorno a voi. Luca Gallerando è responsabile nazionale del settore volontariato di Lega Ambiente, perché Lega Ambiente organizza dei campi di volontariato per tutelare alcune località. Come funziona, Luca? Funziona intanto che noi abbiamo la possibilità alle persone di dare un contributo concreto all'ambiente realizzando dei progetti di volontariato ambientale su tutto il territorio nazionale, approfittando della presenza capillare dei circoli di Lega Ambiente in tutta Italia. Noi non abbiamo clienti ma abbiamo dei volontari, non offriamo la vacanza che giustamente gli operatori del turismo cercano di diversificare nelle loro offerte, ma offriamo delle proposte anch'esse diversificate di cittadinanza attiva nelle quali il viaggio, la vacanza e l'esperienza è costituita anche da contatti con la popolazione locale, nei quali i volontari possono anche sporcarsi letteralmente le mani e rimettere a posto una parte di territori che devono essere ripristinati, riqualificati, valorizzati, per poter anche incentivare delle forme di turismo sostenibile come quelle che alcuni dei vostri operatori raccontavano prima. Ecco, infatti, poi diciamo che quello è un po' il fil rouge che unisce tutti, meno male che sia così. Luca, ci fai un esempio concreto? Poi volevo sapere se questi volontariati, cioè, mentre appunto, come dicevi tu, si è clienti per esempio di un certo tipo di tour operator, quindi il viaggio ha un prezzo, poi parleremo anche di quello ovviamente perché è un altro degli argomenti, però invece nel vostro caso come funziona? Dunque, nel nostro caso ci sono dei piccoli contributi di partecipazione che il volontario, unitamente alle energie che porterà nel campo che avrà scelto, contribuirà quindi per sostenere le spese vive, ma sono importi ovviamente estremamente ristretti. Abbordabili, tu dici, chiaramente. Sono aperti a tutti i campi, sia dal punto di vista diciamo economico di partecipazione, sia per quello che riguarda la possibilità, secondo le varie età, le varie provenienze geografiche, perché noi abbiamo anche campi internazionali, offriamo anche la possibilità di andare all'estero con altre associazioni di volontariato sempre, che sono partner di Lega Ambiente. Ecco, scusami, ecco, praticamente cos'è che si può fare, per esempio? Esatto, facendo qualche esempio, prima si parlava di Acciaroli, Pollica, dove c'era questa fattoria sì. di scrittori. Noi l'anno scorso e quest'anno ripeteremo, realizziamo due campi di volontariato in questo comune che purtroppo è salito alla ribalta delle cronache per l'uccisione del sindaco Vassallo. Vassallo era un ambientalista, sì. Era anche un socio di Lega Ambiente, ha fatto molte cose importanti per il suo comune. La presenza dei volontari l'anno scorso è servita a riabbracciare questa comunità duramente ferita, realizzare un sentiero che collega Pollica ad Acciaroli, quindi un sentiero dal valore sia di comunicazione ovviamente di carattere sostenibile, ma anche con un valore storico. E in questo modo diciamo che i volontari hanno potuto anch'essi unirsi a quella campagna che era Anch'io sono cittadino di Pollica, che è una campagna dove l'aspetto della legalità e dell'ambiente si uniscono fortemente. Poi abbiamo moltissime altre proposte che realizziamo insieme alla Rete Libera, con le quali riusciamo a collaborare e offrire ai nostri volontari anche un'esperienza di formazione, di conoscenza, di approfondimento. Oppure abbiamo i campi in alcune isole molto belle come Alicudi o Favignana, oppure realizziamo delle attività in collaborazione con l'associazione Swim Trekking per offrire alle persone la possibilità di a nuoto fare dei percorsi anche molto lunghi a tappe, però accessibili a tutti grazie alle attrezzature che vengono messe a disposizione, che permettono il monitoraggio di coste e fondali, la pulizia delle stesse e poi con i rifiuti raccolti la realizzazione di un progetto artistico che viene fotografato prima di portare i rifiuti nella giusta differenziazione. Ecco, quindi un viaggio che ci fa sentire utili, nel senso che il viaggio diventa importante per la nostra crescita anche da quel punto di vista. Luca, sono più i giovani, le famiglie, come funziona di solito? Qual è l'approccio dal punto di vista dell'età e se vuoi anche del genere? Direi che è cosmogonico, perché noi abbiamo la possibilità di mandare già bambini di 3 anni insieme ai loro genitori nei nostri campi di famiglia, campi per famiglie. Crescendo, gli adolescenti, i ragazzi dai 14 ai 17 anni possono partecipare ai campi under 18, dove il valore formativo, che ovviamente è presente in tutti i campi, acquista un significato maggiore grazie alla presenza degli educatori esperti di Legambiente che lavorano tutto l'anno con quella fascia di età. E poi abbiamo i campi over 18, dove noi diciamo, facendo una battuta, che questi campi sono aperti da 18 ai 99 anni, perché veramente possono parteciparvi tutti. Ovviamente c'è una prevalenza giovanile, questo è normale che sia così, però va bene che sia così, perché poi ci fa proiettare tutto nel futuro, no? Nel dopo. Certo, ma non bisogna trascurare quelli che noi chiamiamo i giovani di tutte le età, che offrono anche un bagaglio esperienziale differente e quindi anche un arricchimento molto forte nella vita del campo. Vita del campo che peraltro viene vissuta all'interno di pratiche assolutamente sostenibili, quindi i nostri volontari possono imparare a raccogliere nel modo giusto, differenziare, ridurre prima di tutto i rifiuti e poi a differenziarli nel modo giusto, imparano a risparmiare l'acqua, a risparmiare l'elettricità e l'energia in generale, si spostano molto spesso a piedi o con mezzi pubblici e acquistano diciamo delle pratiche che soprattutto noi non vogliamo includere come una, come dire, inculcare come una prassi da estremisti, ma mostrare quanto possano essere semplici e praticabili nella vita di tutti i giorni. Ah, certo, deve arrivarti in modo che poi tu li possa fare tuoi nel corso del tempo della tua vita. Mi sembra un approccio davvero bello e interessante. Luca, io ti ringrazio, voglio ricordare il sito che è legambiente.it e lì potete trovare tutte le informazioni per provare a fare un viaggio di questo tipo, un campo di volontariato. Mi sembra un bellissimo approccio. Ciao Luca, buona domenica, grazie. Ciao e grazie a tutti voi. Ciao, ecco, allora Isabella, intanto tu, noi stavamo parlando di viaggi organizzati che spaventavano, ma volevi aprire una piccola parentesi, perché voi siete legati in qualche modo anche a LifeGate. Sì, sì, tra l'altro grazie Luca, io mi vergogno a dirlo, non sapevo dell'esistenza di questa opportunità e che reputo veramente molto interessante e piacevole, perché è l'educazione, no, che ci manca nel rispetto dell'ambiente e della natura, e ci manca qui, ci manca in giro per il mondo, ci manca un po' ovunque. Quindi benvenga, e sì, anche noi la Earth è molto attento all'ambiente, a quello che può essere un'ecosostenibilità, quindi noi ci siamo legati al progetto Impatto Zero di LifeGate, cerchiamo già nel momento in cui ci proponiamo, nel momento in cui concepiamo il viaggio, al rispetto dell'ambiente, quindi abbiamo un'attenzione anche per la carta che utilizziamo per la stampa del nostro catalogo, l'inchiostro, la nostra documentazione di viaggio. Quindi di per sé possono essere cose magari banali che non, magari in tanti non colgono, però per noi è importante, perché nel nostro veramente volerci sentire, poi a volte che se lo capiscono gli altri a volte non importa, no? Pazienza, noi sappiamo che abbiamo fatto qualcosa, che l'abbiamo fatto, certo. E che quindi questo comunque è un qualcosa che ci fa sentire molto meglio, e quindi continuiamo, no, su questa strada. Anche il discorso appunto dell'acqua, no? L'acqua tanto un bene prezioso, quest'anno è l'anno dell'acqua. Purtroppo ahimè se ne parla conto, poco, no? Perché comunque ce l'abbiamo, apri il rubinetto e l'acqua scende. No, e invece sai, poi viaggiando in giro per il mondo, bravissimo, quale risorsa incredibile. Quindi io devo dire che man mano che si evolve la mia consapevolezza e anche le mie esperienze per il mondo, io quando faccio la doccia la chiudo l'acqua. Sì. No, è una cosa tanto bello stare sotto l'acqua, sotto la doccia, scrosciando, però no, queste cose sono assolutamente importanti, e mi rendo conto che io oggi ho una bambina di 2 anni, comincio anche lì, no, chiudi, no, sì. Perché quindi è un discorso veramente molto importante. Per esempio, non voglio ritornare, ma quest'anno è l'anno dell'acqua e sarà un progetto poi che si evolverà su Milano, sull'Italia, con Expo, no? Sì. Quindi per esempio noi anche questa mostra fotografica, che è il rapporto dell'uomo con l'acqua in giro per il mondo, quindi sono degli scatti meravigliosi, anzi invitiamo chi viene in BIT ad andare a vedere questa mostra, che è veramente molto bella, e sono immagini anche moderne, no? Perché viaggio non vuol dire per forza parlare delle culture antiche, che c'è una modernità nel viaggio, nello scoprire, e quindi il rapporto dell'uomo con l'acqua è un discorso importante, fondamentale, così come il rispetto della natura e di quello che uno va a conoscere e tocca viaggiando. Mi sono persa il filo della tua prima domanda. No, perché dobbiamo parlare dei viaggi organizzati, ma lo teniamo lì in caldo, perché okay. C'è ancora, perché ho un altro ospite. Prima ti volevo chiedere questo: secondo te questo ritorno alla natura, chiamiamolo così, sì, Allora, c'è stato un momento in cui è stato proprio di moda, secondo me. Cioè, guai a non, a non avere questo ritorno, no? E adesso è ancora, secondo te, di moda oppure comincia a far proprio parte della nostra, del nostro atteggiamento di vita? Ma io voglio sperare e voglio credere, sarò un ottimista. Poi ti ripeto, me. Ormai guardo con i miei occhiali, no? Un po', e cerco di convincere anche gli altri, così come magari altri hanno convinto me, così funziona, no? Ci si contagia nelle cose positive. Ecco, quindi tu dici vorrei che non la si vedesse più da un punto di vista soltanto di moda, guai no, se non lo ma fai. No, ma anche perché poi sai, se uno non è abituato a far parte. Noi siamo cittadini e siamo a Milano, io mi rendo conto, sono cresciuta con una casa in campagna, io non ce l'ho più, mia figlia rischia di diventare la cittadina milanese, no, assolutamente no, quindi il viaggio serve anche a quello. Allora cerchiamo di viaggiare e andare sottoterra a scoprire qualcosa di straordinario. Marco Filipponi, buona domenica. Anche a lei, agli ascoltatori. Marco Filipponi è il direttore delle grotte di Frassassi, siamo nelle Marche, in provincia di Ancona. Io vorrei dire una cosa, insomma, se qualcuno non avesse mai visitato le grotte di Frassassi, andatele a vedere, credo che sia una delle cose più belle da vedere in Italia, in assoluto. E, a parte la visita, però, quella diciamo così classica, voi fate anche delle visite un po' particolari, perché sono visite più dedicate a chi vuole approcciarsi alla speleologia. Sì, diciamo che noi abbiamo dallo scorso anno intrapreso un percorso che va oltre la classica visita legata alla comune affluenza alla grotta. Abbiamo deciso di far approfondire i nostri avventori il tema della conoscenza delle grotte, un aspetto molto importante perché l'ambito conoscitivo è, riteniamo noi, sia il motore dell'interesse verso questi mondi che non sono immediatamente percepibili dal comune sentire. Il nostro mondo è un mondo sotterraneo, è un mondo che non è alla portata di tutti, nel senso che comunemente non viene percepito e toccato dalla gente, e quindi noi vogliamo dare l'opportunità di conoscere, quindi conoscere e entrare nel vivo di un mondo che per millenni e che da sempre vive e diciamo si perpetua al di sotto delle nostre sfere conoscitive. Ecco. Questo è il succo. Marco, per intraprendere questo tipo di viaggio, ribadisco, a parte la camminata, quella classica che tutti i turisti possono fare, ovviamente guidati, accompagnati, a vedere le sale che sono aperte. Scusa, una parentesi. Marco, ricordo male o è vero che una di queste grotte potrebbe contenere il Duomo di Milano, tanto è grande? Beh, sì, la nostra sala principale. Sala principale. E non sembra, se voi la vedete, non sembra così grande. Poi invece le misurazioni dicono di sì. Sì. Ecco, dicevo, a parte questo, voi avete la possibilità di fare un percorso invece completamente diverso, addirittura con caschetti e torce, credo. Eh sì, è il nostro cosiddetto percorso avventura, no? Nel senso, diamo la possibilità ai turisti di scegliere due livelli di difficoltà per quanto riguarda questo percorso, questo fuori pista, tra virgolette, sì. Lo chiamiamo fuori pista. In assoluta sicurezza, ovvio. Sì, in assoluta sicurezza, naturalmente. Noi abbiamo due guide accompagnatrici che sono poste una alla testa e una alla coda del gruppo. I gruppi sono di 20 persone all'incirca, quindi tutto si svolge in assoluta sicurezza. Un percorso che è esclusivamente orizzontale, quindi non vi sono salite e non vi sono discese all'interno della grotta. Tutto si svolge naturalmente con questa modalità, con caschi e tute che vengono fornite da noi, ed abbiamo 2 ore, ovvero 3 ore, di immersione completa all'interno di un mondo inesplorato che dà sensazioni uniche. Sì, è veramente emozionante e lo dico perché è proprio così. Marco, non bisogna soffrire di claustrofobia, ovviamente. Beh, sì, è chiaro che diciamo, la peculiarità del contesto in cui siamo può, diciamo, incutere qualche timore, e certo chi soffre di claustrofobia si troverebbe un po' in difficoltà, questo lo dico chiaramente. Ecco, Marco, le visite sono di questo tipo, bisogna prenotarle via rete, si possono prenotare direttamente venendo alle grotte oppure come noi, funziona? Noi, noi abbiamo un call center dedicato per i nostri avventori, i quali potranno avere tutte le informazioni e prenotare questo genere di visita. Io vorrei aggiungere, perché mi ricollego a quello che è il tema della trasmissione, aggiungendo che noi abbiamo tra l'altro avviato una collaborazione con Legambiente per diciamo offrire i temi della didattica ambientale legata alle grotte anche alle scuole, per i bambini di ogni ordine e grado. Questo qui è un progetto che è partito lo scorso anno, ci tengo a sottolinearlo, perché anche questo rappresenta il nostro fiore all'occhiello, perché dare la possibilità di conoscere ai più piccoli quello che è la formazione delle grotte, tutto quello che è il mondo grotte, rappresenta un'opportunità importante per la diffusione delle conoscenze di questo mondo. Certo, sicuramente è così ed è una bellissima iniziativa, quindi se volete aderire o insomma andare a scoprire queste grotte, cominciate a farlo magari guardando le foto che ci sono in rete, ma tanto una foto non vi dice assolutamente niente di quanto invece sia emozionante visitarle. Frassassi.com, questo è il sito. Grazie Marco Filipponi, buona domenica. Ci mancherebbe, grazie anche a voi. Il riposo del guerriero. Allora Isabella Pillolo, stavamo parlando di viaggi organizzati che spesso spaventano perché pare ci possano ingabbiare, no? Quindi viaggio organizzato, io sono obbligato a fare questo, quello e quello. E invece... Sì, mi sembra che ci possa stare, no? Come timore, come... A volte c'è uno stereotipo. Io ce l'ho, per esempio. No, quindi... ma certo, sono d'accordo. Ma infatti voglio dire, il viaggio organizzato significa comunque cercare di, come dicevamo prima, di dare un'opportunità alle persone, perché poi in realtà il tempo a disposizione è sempre poco, no? Sì. Anche se si trascorrono 3 settimane, 1 mese, questo è già un grandissimo privilegio, no? Per una persona che possa viaggiare per più di 2 o 3 settimane. Quindi è un'opportunità che noi diamo. Viaggiare con un viaggio organizzato non significa necessariamente essere intruppati, significa potersi stabilire un itinerario, prevedere dei servizi base, oppure organizzarsi praticamente un po' tutto, dall'inizio alla fine, a seconda delle esigenze della persona che intende fare questo viaggio. Noi per esempio nelle nostre proposte consentiamo un viaggio individuale, l'organizzazione per 2 persone in diverse forme, quindi può essere un servizio privato con guide, con escursioni, con guide culturali, escursioni culturali di altissimo livello, ma diamo anche l'opportunità magari di tenersi del tempo libero, perché la curiosità di potersi anche muovere, viaggiare, guardare con i propri occhi senza nessuno, no? Ancora quel vecchio romanticismo di poter viaggiare con un libro in mano, no? Perché no, si può fare anche questo. Formule anche di spostamento diverso, perché il viaggio è movimento, no? Prima si parlava di camminare, noi abbiamo anche una proposta legata al trekking, perché ovviamente uno dei modi più belli per viaggiare è quello di camminare nella lentezza, in ritmi diversi, ma anche approcciandosi ad ambienti che non possono essere raggiunti in altro modo se non camminando, se non nello stesso tempo anche magari con un auto 4x4, con un fuoristrada. E allora però a quel punto può anche essere che il viaggio organizzato è l'unica opportunità che ti porta a vedere quell'area lì, perché se non ci vai con una guida, con un autista competente, esperto di quella zona, tu non ci puoi andare. Oppure magari ci puoi anche andare, perché ormai si sente di tutto e di più, però arrivi in loco e prendi chi? Una persona, parliamo di sicurezza a sì, questo punto, certo. Per cui il viaggio organizzato garantisce, noi puntiamo moltissimo sulla sicurezza e sulla qualità dei mezzi e delle persone che mettiamo a disposizione delle persone che ci interpellano. Per cui il valore del viaggio, se in questo caso parliamo di valore economico, molto spesso è legato anche a quello. Quindi ci sono, ripeto, diverse forme. Noi abbiamo, come dire, mi sembra adesso di fare un po' la proposta da supermercato. Aspetta, anche però... perché poi parleremo anche di prezzi per capire anche la differenza di organizzarsi invece via internet, no? In rete, quindi fare tutto da soli. Ne parliamo dopo, io perché ho Umberto Sansoni al telefono. Umberto Sansoni, buona domenica. Buongiorno a lei. Ecco, Sansoni è direttore del Dipartimento Ricerca del Centro Camuno di Studi Preistorici, perché prima siamo scesi nelle grotte a scoprire appunto Stalattiti e Stalagmiti o Stalattiti e Stalagmiti. Non ho mai capito l'accento esattamente dove andrebbe, poi magari lo chiederò alla Dragot più tardi, ma invece qui andiamo a cercare di andare a scoprire l'arte rupestre e quindi cominciare a fare i piccoli archeologi. Sansoni, come funziona? Ecco, arte rupestre c'è ancora un mondo relativamente misterioso, nonostante che abbiamo qui il primo riconoscimento nella World Heritage List dell'UNESCO nel 79, siamo di fronte a un qualcosa di straordinario, segni lasciati dall'uomo negli ultimi 10 millenni. E il momento focale in cui c'è il contatto più intenso con il campo, con questo patrimonio, il campo archeologico che portiamo avanti nell'estate. Ecco, quindi cosa organizzate? Dei viaggi, nel senso che ci si trova in un punto e si va insieme con una guida, come funziona? No, sono delle esperienze sul campo, un vero campo archeologico in cui portiamo avanti esplorazione nel bosco. Ecco, che dura una giornata, una mezza giornata, oppure che si sviluppa in più giorni? No, è un minimo di 2 settimane. Quest'anno, per esempio, dal 21 luglio al 5 agosto, un minimo di 2 settimane in cui si svolge un intero ciclo di esperienze che parte dalla prospezione sul terreno, l'esplorazione, l'individuazione di rocce istoriate, tutte all'aperto ovviamente, la pulitura, il rilevamento, la fotografia, la cartografia, poi c'è il passaggio in laboratorio con l'elaborazione, la fotografia tecnica, l'informatizzazione delle immagini, il catalogo, l'analisi, in pratica cerchiamo di svolgere tutto quel che è il percorso di un archeologo farebbe, che un ricercatore archeologo farebbe ovviamente. Certo, noi ci rivolgiamo fondamentalmente ad archeologi, ma attenzione anche ad aspiranti archeologi. Soprattutto forse, a chi vuole avvicinarsi. Soprattutto sia studenti universitari che anche delle scuole superiori, ma direi non soltanto ad archeologi, ma ad antropologi, a tutti coloro che vogliono prendere un contatto con una dimensione che, garantisco, ha un fascino straordinario. Non soltanto sul piano della pura esperienza scientifica, direi, ma estremamente coinvolgente, perché a differenza, ve lo dico in maniera semplice, a differenza di uno scavo normale, uno scavo classico che estrae dei reperti, che analizza degli strati, noi abbiamo a che fare direttamente con delle immagini che ci testimoniano il pensiero, il credo delle popolazioni che si sono succedute in quest'angolo delle Alpi. Ecco, Umberto Sansoni, testimoniano... certo, il nostro passato. La devo salutare perché c'è il GR, tra pochissimo do subito il sito www.ccsp.it. Grazie, buona domenica. Okay, il riposo del guerriero. In diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo, siamo a Milano Roffiera, padiglione 3, stand B11. Parliamo di viaggiare e imparare. Isabella Pillolo, ancora la differenza tra crearsi un viaggio con la rete, quindi cercarmi le cose attraverso la rete, o invece scegliere un tour operator o qualcuno che può darmi qualche consiglio. La rete ovviamente oggi è assolutamente interessante e utile, no? È anche un mezzo che usiamo anche noi, però voglio dire, ben venga che uno guardi e verifichi. Io credo che la rete possa eventualmente servire per, da un punto di vista organizzativo, per magari prenotarsi un albergo, sebbene poi guardiamoli gli alberghi, e noi che facciamo questo lavoro e viaggiamo, verifichiamo, supervisioniamo, controlliamo le camere, non è la camera pubblicata nel web la camera standard generalmente, se vogliamo solo banalizzare la faccenda, quindi ma il viaggio non è l'albergo, Allora, il viaggio è l'organizzazione, se parliamo di un viaggio di conoscenza, di esperienza, è il trasporto, come ci siamo detti, è la qualità delle visite, è la sicurezza. Quindi sulla rete tutti propongono, perché purtroppo è così, tutti propongono il meglio, noi siamo i migliori, più bravi. Credo che la necessità sia, la rete può essere una vetrina, poi serve necessariamente, a mio avviso, questo è il consiglio che do a tutte le persone, perché io rispetto tutte le persone che viaggiano, che ci sia sempre un canale per capire chi c'è dall'altra parte, per parlare, per dialogare, per poter capire se c'è una vera e reale esperienza dall'altra parte. Poi ribadisco, il web a mio avviso è una prenotazione, quindi è una centrale di prenotazione. Il viaggio lo fanno le persone, l'esperienza viene concepita dal cuore e dal cervello dalle persone. Quindi anche prima, scusami se mi riaggancio, ma hai dato delle comunicazioni meravigliose su diversi approcci del viaggio, quindi della terra, poi noi siamo Earth, quindi la speleologia piuttosto che l'archeologia, cioè un'esperienza di viaggio è anche quella, no? Noi per esempio siamo delle persone che mettiamo in contatto diversi esperti, quindi la famosa esperienza di viaggio può essere il viaggio con l'archeologo, oltre con l'archeologia che si vede in loco, il viaggio con il fotografo per imparare a fare le fotografie e comprendere cosa significa fare un servizio fotogiornalistico, un reportage di viaggio vero e proprio, il viaggio con il geologo, che ne so, in Etiopia o in aree del mondo per capire esattamente se si hanno questo tipo di interessi. Allora, questo discorso in web non si può fare, non si può acquistare l'esperienza e quello che viene generato dalla vera conoscenza e dalla prova e da ciò che si elabora con la collaborazione di tante persone. Certo, quindi l'esperienza di viaggio fa la differenza, e dovrebbe essere quello. Poi, per l'amor del cielo, il viaggio, l'economicità, parliamone, perché poi sulla carta sembra, quando si tratta di viaggio mi prenoto il volo e prendo l'albergo, lì è finita. Purtroppo ci sono, diciamocelo pure, anche per noi le regole stanno cambiando, quindi è difficile anche fare una proposta economica e poi quella si mantiene. Negli ultimi mesi siamo anche un po' controtendenza, si pubblica un prezzo ma magari il prezzo si abbassa perché la compagnia aerea ha fatto la promozione, è uscita, ma noi non è che siamo organizzazioni turistiche e quello è il prezzo, noi ci adattiamo, quindi diciamo che l'organizzazione deve servire come consulente, perché l'esperienza del nostro lavoro, ecco, è quello, l'approccio infatti è giusto questo, di consulenza è per quello, esatto, poi uno vera, si affida, poi ci si riempie la bocca, quindi bisogna testarla. Simona Eco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Simona Eco è direttrice di Project Abroad, perché voi siete una delle prime organizzazioni internazionali che si occupano di volontariato e stage all'estero. Sì, allora, Project Abroad organizza viaggi di volontariato internazionale e stage all'estero. Siamo impegnati in molti paesi di Africa, Asia, America Latina e Europa dell'Est, quindi principalmente paesi del sud del mondo. I progetti a cui le persone possono partecipare sono vari, quindi ecco, è un modo di viaggiare e allo stesso tempo impegnarsi e quindi immergersi nella cultura locale. Ci sono progetti che vanno dal volontariato con i bambini, al volontariato per l'ambiente, a progetti che hanno un aspetto formativo ancora più rilevante e quindi progetti di stage sui diritti umani oppure in economia oppure in giornalismo. Quindi chi parte con noi ha l'opportunità durante, ecco, di viaggiare, quindi di conoscere un posto nuovo, ma di viverlo appieno, perché ovviamente parliamo di esperienze che durano di solito almeno un mese. C'è a volte la possibilità di partire anche per 2 settimane, ma di solito, ecco, il periodo consigliato è comunque un po' più lungo, quindi si ha modo, si ha occasione di integrarsi nella vita locale anche attraverso una vita in famiglia, attraverso il lavoro, appunto un impegno nel quotidiano. E possono partire con noi tutte le persone dai 16 anni in su, quindi è un'esperienza aperta a tutti. Non è necessario avere già delle competenze, perché cerchiamo di adattare poi il ruolo di ciascuno nell'ambito del progetto alle competenze che ha e magari alle aspettative, quindi è un modo, appunto, ancora una volta di viaggiare, allo stesso tempo di imparare, di acquisire punti di vista nuovi, di conoscere realtà completamente diverse dalla nostra. E quindi poi, prima sentivo, si parla anche del ritorno a casa, tornare a casa portandosi un bagaglio nuovo. anche per la, legato alla questione degli abitudini, degli sprechi, ma proprio stravolgere un po' il proprio punto di vista. Quindi sotto questo aspetto proponiamo delle esperienze formative molto forti. Ecco, prima parlavo con Isabella proprio di questo, Simona, e lei mi diceva che ci sono anche, secondo la sua esperienza, dei neopensionati, ecco, che si avvicinano a viaggi di questo tipo, quindi offrendo le proprie capacità appunto in paesi dove magari scarseggia questo tipo di manodopera. Esiste anche per voi questa realtà? Sì, allora sicuramente la maggior parte delle persone che parte con noi è in età più giovane, sì. Però non mancano le persone adulte, pensionate, che decidono di fare esperienze del genere e che portano le proprie competenze, spesso un entusiasmo anche molto, molto forte. Inoltre poi ci sono persone che non necessariamente sono in pensione, ma che magari stanno lavorando da molto tempo, hanno bisogno di una pausa, hanno la possibilità di prendere alcuni mesi di aspettativa e quindi partono e si mettono molto in gioco, forse ancora più che un ragazzo, una ragazza in età giovanile. E riescono quindi ad apportare un contributo, a dedicarsi magari a un interesse che hanno accantonato, comunque che quantomeno a cui non si sono dedicati per lavoro fino a quel momento. Quindi certo. Sì, è una realtà in crescita anche sotto questo aspetto. Insomma, il modo per viaggiare è intelligente, direi, e che davvero non conosce età. Simone, che ricordo il sito che è www.projects@abroad.it. Grazie Simone, buona domenica. Ciao. Allora, gli aggiornamenti sul traffico, poi l'ultima domanda per Isabella Pillolo, poi dovremo avere ancora degli ospiti, di viaggi si potremo parlare veramente ancora un'infinità di tempo, ma sta per scadere perché e poi vi ricordo alle 11.30 il mistero in 24 minuti. Il riposo del guerriero. Allora Isabella, siamo arrivati quasi alla fine con te, voi organizzate viaggi in tutto il mondo, anche molto molto in paesi molto lontani. La Lapponia, per esempio, per me è irraggiungibile, non so neanche se esista, ma esiste. La Lapponia sì, assolutamente sì, è anche quella un'esperienza, no? Comunque dalla mancanza di luce, dalla quantità di ghiaccio, di neve, di bianco, quindi dalla possibilità di nuovo di fare un viaggio perché itinerante, in movimento, con le motoslitta, quindi in un ambiente, in un mondo a noi assolutamente... In qualche modo alieno, ecco, il freddo molto, di questo... No, periodo, certo, ma quella lì è un'altra cosa. Ancora di più. Senti, allora, quanto si spende e quant'è il tempo minimo richiesto per affrontare un viaggio di questo tipo? Allora, dipende ovviamente dalle destinazioni. Sì. Noi su quello che, di cui abbiamo parlato i nostri continenti, quindi il Sud America, India, Himalayane, consigliamo come minimo dai 12 ai 16 giorni minimo. Anche per ammortizzare il tempo, le distanze, no? Oltre che i costi ripeto sono vari, perché noi abbiamo aperto anche un approccio di nuovo a viaggiatore un po' più indipendente, no? Anche con possibilità di utilizzare i pullman di linea o semplicemente per l'India un'auto con un autista e degli alberghi semplici, sempre per una questione di sicurezza, per quelle persone che vogliono essere liberi, no? Questo concetto di libertà, quindi è varia la quotazione. Direi che abbiamo un approccio minimo dai 2.000-2.500 euro a salire, proprio perché parliamo di costi fissi, no? Che possono essere alti. E poi non c'è limite, perché ovviamente noi proponiamo esperienze, ma ripeto, esperienze che possono anche comprendere un albergo particolare, il lusso, di nuovo il lusso per noi è esperienza, non è determinato solo dall'albergo. E quindi, oppure io ho incontrato ieri una signora fantasmagorica che realizza viaggi con noi e fa viaggi di 40 giorni, 2 mesi, quindi si fa tutta la Patagonia via terra, uno dei miei sogni che non ho mai potuto realizzare in un unico viaggio. Prima o poi accadrà anche questo. Chissà, forse. Qual è stata l'esperienza che ti porti più nel cuore, se ce n'è una? Ma guarda, una specifica è difficile, no? Quello che io ritengo importante, come accennavamo prima, è quello che ti rimane dentro il cuore per vivere oggi, perché poi tu sei quella che sei qua e quello che sei dall'altra parte del mondo. Sì, no, l'esperienza più importante della mia vita sono stati i miei 9 mesi di vita in Perù. quindi hanno proprio cambiato il mio punto di vista e professionale per capire la responsabilità e il vero valore di essere organizzatore, non intermediario, quindi essere in loco, conoscere, no? Entrare proprio in contatto a livello umano, di amicizia con i miei collaboratori e comprendere cosa significhi veramente la diversità. E oggi me la porto e me la vivo ancora di più, anche perché sono madre, no? Quindi sono viaggiatrice, sono una persona un po' inquieta che ha bisogno di muoversi, di conoscere, ma sono anche una madre, mi rendo conto di quanto capire anche una crescita, una vita, no? Il rispetto della vita in paesi anche molto poveri sia veramente il regalo più grande che un viaggio e che un'esperienza di viaggio ti può dare, perché poi te la devi ricordare qua tutti i santi giorni. E come si diceva prima, il viaggio ogni tanto proprio serve anche per rimpossessarsi, no? Di questa energia e di ciò che il mondo, la terra è tanto veramente preziosa. E quindi andiamo avanti così, e che ben venga, quindi viaggiamo in qualunque modo. Anzi, è fortunata, perché con una madre così viaggerà. Ma sicuramente guarda, e imparerà. Immagino che sia così, perché questa cosa gliela trasmetterai per forza. Vuoi ricordare il sito, Isabella, per chi volesse le informazioni? Sì, www.earthviaggi.it. Quindi noi, ripeto, siamo una vetrina online, quindi dietro al sito ci siamo noi, ci sono anche le nostre agenzie partner distribuite su tutto il territorio italiano. Non distribuiamo il nostro catalogo a pioggia, quindi anche per coloro che volessero contattateci, poi noi magari vi segnaliamo anche alle nostre agenzie, cioè quelle che hanno una preparazione, hanno un approccio al viaggio simile a noi, perché comunque ripeto, noi non vogliamo vendere un viaggio, vogliamo costruire un'esperienza di viaggio. Non siamo comunque infallibili, quindi quello di cui ho parlato è quello che, l'impegno che noi mettiamo in ogni nostra operazione, e è bello condividere, ed è bello anche essere qua in BIT e incontrare i nostri clienti e pensare di aver incontrato anche persone che viaggeranno con noi. Ecco, quindi certo, grazie a poi tutti. Il doppio incontro, no? Sì, qua sì, e poi sì, nella destinazione. Esatto. Grazie Isabella, resto pure intanto seduta qui. Volevo chiudere con Guido Bosticco. Buona domenica, Guido. Buona domenica a voi, grazie. Allora, docente di scrittura della Scuola del Viaggio. È una prima scuola, è la prima scuola di viaggiatori. Cioè, cosa fate? Un po' come Hogwarts sono i maghi e invece voi preparate i viaggiatori. Come funziona? Siamo partiti dalla domanda se fosse possibile insegnare a viaggiare. Non so se abbiamo risposto in modo giusto, ma la nostra risposta è stata che con la creatività si potesse aumentare l'esperienza di viaggio. Di fatto teniamo dei corsi di scrittura, fotografie, disegno, carnet de voyage, di viaggio, legati proprio a un concetto di movimento nello spazio, nei luoghi vicini e lontani a casa, quindi nel viaggio, a un concetto responsabile e sostenibile, cercando di trasformare questo concetto di cui tutti parlano da molto tempo, devo dire noi abbastanza anche tempo fa abbiamo cominciato a farlo, legando questi concetti al concetto di essere divertenti, di divertirsi e di essere creativi. Quindi noi facciamo delle summer school di scrittura, disegno e carnet, e con questo ci introduciamo nei luoghi in maniera un po', come dire, alternativa, divertente, anche sperimentale dal punto di vista dell'approccio ai luoghi. Ecco, quindi la scuola di viaggio funziona così. E faccio un esempio pratico, una cosa che farete, che andrete a fare, qualcosa che organizzerete tra poco. Noi storicamente da sempre organizziamo una summer school ogni anno, alcune volte sì. Due, fra fine luglio, quest'anno sarà dal 22 al 29, non sappiamo ancora dove. Le abbiamo organizzate in Sicilia, Marsala, Modica, a Specchia l'anno scorso, a Rio Maggiore, a Verucchio di Romagna. Ogni anno tendenzialmente cambiamo. Sono 9 giorni di full immersion con appunto i nostri docenti di scrittura, che sono Andrea Bocconi, Claudio Visentin, che è anche il fondatore della Scuola del Viaggio, di disegno è Stefano Faravelli, di fotografia è Michele Ferrari, poi da un po' di tempo si è avvicinato a noi anche Federico Taddia, che racconta, che voi conoscete bene, certo, che racconta come scovare storie nei luoghi in cui si va. Sono 9 giorni davvero di full immersion, in cui poi abbiamo anche ospiti, abbiamo avuto tanti ospiti da Rumiz, Oliviero Toscani, Cederna, Severnini, Berengo Gardin per i fotografi. E io dico sempre che quello lì è come un antibiotico a rilascio lento, cioè noi in 9 giorni sommergiamo di attività possibilità da fare di laboratori, workshop, lavoriamo molto sui, in una, come una factory. I ragazzi o le persone, un tempo erano ragazzi perché erano universitari, adesso è aperta a tutti, quindi abbiamo allievi, diciamo, di qualsiasi età e provenienza. Lavorano sul territorio, li sguinzagliamo intorno a dove siamo a scrivere, fotografare, raccontare, incontrare persone, perché il viaggio è anzitutto incontro. Per esempio, noi facciamo degli Michele Ferrari, che è il nostro docente di fotografia, spesso dà degli esercizi molto divertenti. Per esempio, riuscire a entrare nelle case delle persone e fotografare quelle cornicette che tutti hanno sul comò di casa in cui ci sono delle fotografie dentro, farsele raccontare e riuscire a fotografarle. Significa quantomeno entrare in casa di qualcuno, riuscire a arrivare al loro comò, farsi invitare, farsi raccontare delle storie spesso intime, o anche le fotografie che qualcuno tiene nel portafoglio. Tutti i modi per entrare in contatto con le persone dei luoghi in cui ci troviamo. Alla fine, 9 giorni in cui si scrive, si fotografa, si disegna, si discutono insieme i lavori fatti, si cerca di migliorare, oltre che tecnicamente, proprio dal punto di vista mentale dell'approccio al viaggio. E poi non rilasciamo nessun diploma, non siamo una scuola professionalizzante, non inventiamo che poi diventeranno dei reporter di viaggio, ma devo dire che molte persone hanno cambiato mestiere e vita dopo aver fatto le perché poi ti appassioni, quando le cose le fai poi ti appassioni, non c'è niente da dire, siamo spesso contagiosi. È così, ma funziona in questo modo, poi la creatività muove sempre l'anima e anche la voglia di andare avanti. Grazie Guido Bosticco, io volevo ricordarvi il sito che è www.scuoladelviaggio.it. Buona domenica Guido. Grazie altrettanto a voi, arrivederci. Allora, siamo un po' in ritardo, ma cerchiamo di sentire tutti. Intanto voglio ricordarvi che la nostra glottologa, che è Francesca Dragotto, comunque sulla pagina di Facebook del Riposo del Guerriero parlerà dei termini legati al mondo del viaggio. Ho trovato una cosa anche molto carina, non abbiamo avuto tempo di sentirla in onda, ma vi prego di andare su Facebook e leggere quello che ha scritto, perché fa molto ridere. È una traduzione sbagliata di una parola, però non voglio anticiparvi niente. E c'è Marta Cagnola invece. Marta, ciao, buongiorno. Buongiorno, anch'io in viaggio in realtà, perché sto tornando da Sanremo verso casa, ancora una giornatina di lavoro. È un viaggio incredibile, ieri stanotte hai fatto tardissimo come al solito, forse hai fatto anche Baldoria, non lo so com'è andata dopo. Che l'ultima sera è quella in cui si fa proprio meno Baldoria di tutte, perché si finisce estremamente tardi, perché quando tutti vanno a dormire, perché hanno visto la serata e pensano che sia già tardi, ebbene per i giornalisti tutto comincia. Perché ci sono le conferenze stampa, le interviste, insomma, in realtà ho passato una notte di lavoro, diciamo così. Marta, senti, noi da spettatori ci siamo un po' annoiati quest'anno, e lì com'era il clima invece? Parlo per me, onestamente, ecco, magari gli altri guarda, no, però in realtà quest'anno secondo me più che lo spettacolo, l'investimento è stato sull'attesa, sulle polemiche, servono per far cassa, servono per far ascolti, i 17 milioni di picco di ieri sera su Celentano sono chiaro sintomo, è un po' l'effetto della crisi, bisogna fare tanti ascolti perché così si venderà molto cara la pubblicità l'anno prossimo, un anno in cui non sapremo in realtà come sarà l'economia. Io ho trovato molto deboli i testi, un po' stanca la direzione artistica, senza tantissime idee, ma lo ha confessato lo stesso Mazzi, dando le dimissioni. Ti ha fatto una scelta, alla fine, certo. Noi da qui ci divertiamo, ovviamente sempre molto. Perché il carrozzone, l'evento è straordinariamente divertente. Ecco, infatti lo è per chi lo vive, in effetti. Esatto, non passa a dire niente di tutto questo. E purtroppo, ecco, anche tu dici, era un po' più stanco rispetto al passato, anche dal punto di vista del contenuto. Ecco, io ho trovato che ci fosse poco contenuto, ci fosse poca eleganza proprio, e anche intelligenza, ecco, in molto del contenuto che abbiamo sentito. Lo dico personalmente, un po' mi dispiace, perché è una grande vetrina comunque sia Sanremo, e credo che insomma sia necessario fare davvero qualcosa per alzare insomma, un po' l'anno prossimo dovranno livello. Innovare per forza, perché appunto bisognerà stabilire tutta una nuova direzione artistica. Marta Cagnola, direttrice artistica, ma dopo 7 anni lascia. Proponiamo Marta Cagnola, direttrice artistica del Festival di Sanremo. Accidenti, dai, sì, ci pensiamo. Ecco, dopo tra l'altro questo, Isabella Pillolo, che è stata mia ospite oggi, stava pensando di ritornare in Perù e portare subito sua figlia, perché dice, appena sentito Sanremo si è... No, io io reputo che insomma bisogna adesso nei termini giusti non credere nel mondo dei puffi, no? Tornando all'argomento, ma ci vuole un po' di ottimismo e insomma sollevare un po' di valori, no? Invece ecco, che, sì. Che come dire annoiarsi o comunque così rimanere... È mancato un po' questo, ecco. Infatti devo dire. Grazie intanto Marta e buon ritorno a Milano, ovviamente. Grazie, prestissimo. Ciao, grazie. Questo era un po' di backstage, una pillola di backstage, perché siamo un po' in ritardo e adesso apriamo le porte al nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide Paolini, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, viaggiando si impara anche a mangiare, ovviamente. Ma io credo che il viaggio sia strettamente collegato, il cibo vagando di cui parlo sempre è viaggiare scoprendo dei cibi, ma scoprendo anche dei luoghi, perché secondo me sono due cose strettamente collegate, non è che uno viaggia solamente per arrivare in un posto e mangiare, ma bisogna anche guardarsi attorno, cioè gli occhi servono a quello e anche il cervello, quindi credo che addirittura delle volte io ho scoperto dei luoghi magnifici cercando di andare così a trovare dei prodotti, un ristorante o un ecco, raccontami le tue esperienze più vicine da questo punto di vista. Ma le esperienze più vicine devo dire che forse sono state, sto pensando al Friuli e sto pensando al Veneto. Beh, le mie esperienze più vicine sono state, l'ho scritto stamattina, a Verona in un ristorante appena aperto che così mi ha colpito per alcuni particolari, per alcuni dettagli e perché una volta entrato dentro ho avuto l'impressione di essere un po' proiettato nel futuro, quello che sarà domani, magari saranno domani i locali e la ristorazione. Ho scritto che non, questo locale sicuramente non salirà nella hit parade delle guide gastronomiche, ma sicuramente se uno guarda non solo a quello che mangia, ma si guarda anche attorno e pensa un po' all'evoluzione della società, all'evoluzione di quello che sta succedendo, ecco allora questo è un locale che mi ha abbastanza colpito. E un altro viaggio che mi ha colpito è stato in Puglia, nel Salento, è stato Lecce, sicuramente una città che così mi ha stregato, perché devo dire che quel centro storico barocco l'ho trovato davvero straordinario. E poi ho scoperto appunto un allevamento, non avevo mai visto un allevamento estensivo di pesce lontano a 4 km dalla costa e sono andato in una giornata abbastanza fredda con un vento terribile alle 7 del mattino, però è un'esperienza che mi è piaciuta in maniera notevole perché ho visto con i miei occhi appunto dove sta andando anche l'acquacultura, cosa che prima magari avevo semplicemente letto. Ecco, queste sono state così l'esperienza, e l'ultima è stata a Monte Isola, sul lago d'Iseo, dove sono andato perché sono stato invitato da Gianfranco Vissani nella sua trasmissione, così, a vivere con lui una di queste trasmissioni che lui sta facendo per la Sette, e sono andato a vedere appunto l'essiccazione delle sardine. E il lago d'Iseo io non lo conoscevo, però non ero mai stato in barca per un'oretta, non avevo mai visto questi paesi, questo paesino Montisola, che sono rimasto sconcertato perché fa 1600 abitanti, io credevo invece un paesino da 200-300 abitanti, in realtà è un vero paese ed è, diciamo, bisogna raggiungerlo in barca o col traghetto, quindi cioè un paese probabilmente che non immagini. Ecco, quindi anche perché, come sai, molto spesso dall'acqua la visuale è sempre completamente diversa, a parte l'impossibilità di raggiungere determinati posti, però è anche proprio la visione dall'acqua che fa cambiare completamente l'approccio verso quello che stai guardando, anche un posto che pensavi di conoscere fino a un momento prima. E devo dire che sono entrato a un certo punto in un bar e ho ritrovato l'atmosfera degli anni 60, cioè quelle persone che si giocavano è fermato a carte, il tempo, ecco. Sì, le persone che giocavano a carte col televisore acceso e quindi stavano discutendo, stavano giocando a carte, uno guardava la televisione mentre giocava a carte, un altro prendeva il caffè, quindi mi è sembrato di tornare indietro nel tempo, eppure cioè, è un paese vivo, perché come dicevo, insomma, 1600 abitanti sono tanti. Vabbè, sicuramente. Grazie Davide, ci sentiamo poi domenica prossima. Ciao. A presto, arrivederci. Grazie, ciao. Un mistero in 24 minuti. 11.37 comincia il mistero in 24 minuti e allora sto sorridendo perché due ascoltatori mi hanno fatto un cartello che sto vedendo attraverso il vetro, arrabbiati per una multa del biglietto della metropolitana, perché per venire qua in metropolitana dovete prendere il biglietto per Rofiera, non dovete prendere il biglietto invece solo per la città, perché fanno i controlli e di conseguenza si mettono apposta ovviamente lì a controllare, quindi chiedete il biglietto per lo dico, ecco, tutte le persone che stanno venendo qui alla BIT a Milano Ro Fiera a visitare ovviamente la manifestazione. Cominciamo con il mistero, 24 minuti per voi, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, il numero 800 24 00 24. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio famoso o qualcosa di particolarmente conosciuto, e il primo indizio è questo. Allora Lorella da Roma, buongiorno, ciao Lorella. Buongiorno. Ciao Lorella, questa è una canzone famosissima dei Queen, ricorderai sicuramente la voce di Freddie Mercury, Show Must Go On, così si intitola. Cosa vuoi fare? Siamo a 1000 euro. Sarebbe bello vincere 1000 euro, ma chiedo il secondo indizio. Allora scendiamo a 500 euro con uno dei protagonisti di Sanremo di quest'anno, ma in questa canzone lui c'è solo nel testo, perché in realtà la musica è di Ryuichi Sakamoto. Capisco che ti perdo, riconosco il verbo e so che dolore dà. Se mi telefoni lo fai per solitudine, ma per solitudine anch'io ti richiamai, per un erotico ricordo che mi invade, di colpo si apre la passione di una rosa al sole. Allora eccoci qua, Lorella, questo è Samuele Bersani con Isola. È il secondo indizio, siamo a 500 euro, Lorella. E dicevi che la musica di Ryuichi Sakamoto, giusto? Sì, la musica è sua. Tra l'altro Samuele Bersani ha scritto questa canzone, cioè ha scritto il testo di questa canzone un po' brasilianeggiante, perché Sakamoto adora la musica brasiliana, e per Ornella Vanoni poi l'ha cantata anche Bersani, ma questo così non è che sia importante per quanto riguarda il mistero, semplicemente un'informazione in più. Quindi Isola. Questo sarebbe un indizio? Isola, Samuele Bersani, sì, l'indizio sì. C'è. Ma io a questo punto dico la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi del 2020 e quindi il no di Monti, tutta la polemica che c'è stata. Sì, certo, l'abbiamo anche seguita. Grazie Lorella, buona giornata. Grazie. Per te sarebbero 500 euro se la risposta fosse giusta, ma lo potremo scoprire solo allo scoccare del 24esimo minuto. Lara, dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno. Ciao Lara, ciao. Cosa vogliamo fare? Vediamo, ascolto un altro indizio. Un mistero in 24 minuti. Lara ha scelto di ascoltare un terzo indizio, andiamo a 300 euro, eccolo qua. Se non è romanzo, sognare non va, dirai frasi fatte, le sole che sai, guardarmi negli occhi non puoi. Eccoci qui Lara, questo è il terzo indizio, 300 euro, la canzone è Talento di Renato Zero. Dunque, io ho pensato, la polemica che c'è stata fra il direttore artistico del Festival di Sanremo Mazza e il direttore della RAI a proposito di Celentano, e poi si è chiusa con le dimissioni di Mazza ieri. L'hai sentito ieri anche Celentano? Sì, a dirti la verità, l'ho guardato online perché noi non abbiamo la TV. Ecco, quindi... quindi dici, l'ho visto, è un modo per seguirlo, ovviamente, anche sì, perché ormai la rete arriva prima della televisione, insomma succederà questo prima o poi. Grazie Lara, buona giornata. Anche a voi, arrivederci. Ciao, grazie. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Da Treviso. Massimo, abbiamo sì, 3 indizi, 300 euro, che cosa vuoi fare? Guardi, per me è... Aspetta, se dai una risposta, allora ascoltiamo risposta, i 3 indizi. Sì. Andiamo, ascoltiamo i 3 indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Ecco. Io sono un'isola e le stelle mi hanno circondato. Ci vuole un gran talento per fingere. I Queen di Show Must Go On, Samuele Bersani con Isola e Renato Zero con Talento. Allora Massimo, dicevi. Sì, io al primo indizio ho pensato a Whitney Houston per il discorso che praticamente sono andate avanti lo stesso le premiazioni degli Oscar della musica sebbene lei fosse morta, e poi anche lo ritrovo nella canzone di Samuele Bersani, ci sono degli accenni, e anche quella di Renato Zero. Insomma, certo, sicuramente. Allora, magari sì, perché no, ma come sai si saprà soltanto al 24esimo minuto. Grazie Massimo. Va bene, grazie a lei. Per te sarebbero 300 euro. Carlo da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Ciao Carlo, siamo a 300 euro, cosa vuoi fare? Sì, non è che gli indizi mi abbiano aiutato molto. Strano, dovrebbero servire a questo, però vabbè. Ma più altro confuso. Comunque mantengo la prima idea che mi ero fatto. Sì. Secondo me la notizia della settimana sono le... Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, ascoltami, scusami, non ho sentito la risposta perché intanto sono andati sì, 5 minuti e non ho capito, però puoi ripetere. Dicevo che rimango con la prima sì, idea che ho avuto, che è praticamente la notizia della settimana sono le dimissioni del presidente tedesco. Ah certo, grazie, grazie. Prego, grazie. Ciao Carlo, ancora buona domenica. Lino da Bolzano. Ciao, buongiorno. Ciao Lino, allora siamo a 300 euro. Ma mi ha fregato il buon Massimo che ha parlato prima, 2 ascoltatori fa. La notizia di Whitney Houston e dei Grammy Awards che sono stati nonostante la morte. Cambiamo la risposta. Oppure ascoltiamo un altro indizio, cosa vuoi fare? No, la risposta era proprio quella, purtroppo non c'era da cambiare. Ma chi te l'ha detto che... le stesse che ha detto lui. Ah, lo dici tu che è quella la risposta giusta, quindi. Sono assolutamente sicuro di questo. Quindi non vuoi dare un'alternativa a questa? No, purtroppo no. Era quella che ho pensato da quando ho sentito il primo indizio a inizio settimana, dal primo promo della trasmissione. Lino, vero che ascolterai la puntata fino alla fine, vero? Per avere la risposta. Ci provo perché devo andare al lavoro poi, quindi vabbè, radio. Esatto, la pubblichiamo se no in rete su Facebook. Grazie, ciao Lino, buona giornata. Grazie a te, buona giornata, ciao. Lino è come se non avesse giocato, in poche parole, no? Perché non ha dato nessuna risposta, anche perché quella che avrebbe voluto dare è stata già dichiarata. Camillo da Pordenone. Sì, buongiorno. Ciao Camillo. Niente, io praticamente mi hanno preceduto, io da quando ho ascoltato Show Must Go On, il mio primo pensiero è stato Whitney Houston. Sto cercando di, insomma, di immaginare, insomma, di pensare a qualcos'altro. Degli altri, ci sono anche degli altri indizi, se vuoi, cioè li abbiamo qua, ce li ho qui davanti. Avendo sentito Talento e poi anche l'altra canzone, mi viene solo lei, in questo momento non riesco a pensare ad altro. Quindi cosa vuoi fare, Camillo? Niente, cioè in questo momento... Non hai giocato, anche Camillo non ha giocato, grazie, ciao. Piace, Camillo, grazie. Puoi giocare la settimana prossima. Brigitta da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, anch'io ho la stessa idea. Allora, diciamolo. La risposta giusta non è Whitney Houston, va bene? Oh, siamo okay, a posto, eccoci qua. Allora adesso voglio sentire un altro indizio. Brava Brigitta, io ti adoro. Eccolo qui, quarto indizio per 200 euro. Je t'aime. Rita, te la ricordi questa canzone? Sì, la conosco benissimo, è una canzone di Serge Gainsbourg e Jeanne Birkin. Je t'aime moi non plus. Quindi sai questi sospiri così Sì, sì, diciamo. E la tua risposta quale potrebbe essere? Cambio idea, dunque, a questo punto. E tutta quella polemica che è girata attorno l'abito di quella modella a Sanremo. Grazie Brigitta, ciao, buona domenica. Buona domenica. Rosalba, buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno. Rosalba, abbiamo 30 secondi per te. Sì. Allora, mi dai la risposta? Ho sentito tutti i miei, le notizie sono già passate tutte, allora mi rimane soltanto la notizia quella di Carla Bruni, della statua di 2 metri di bronzo, per cui c'è stata la polemica in Francia, ecco, mi gioco questa. Grazie Rosalba, vediamo se Gaetano ha la risposta giusta, non è tua Rosalba, mi dispiace. Gaetano, abbiamo 200 euro e 10 secondi, però mi devi dare la risposta giusta, ti prego, fallo. Brucio i tempi. Mary Streep che vince l'Oscar inglese perdendo la scarpa. Che rabbia, che ho una rabbia, guarda. Gaetano. Sì. La risposta era Belen. Che rabbia, perché prima Brigitta ha detto la polemica, ma non la polemica, semplicemente lei, perché Show Must Go On, perché parliamo di show, Isola perché lei era stata all'Isola dei Famosi, Talento perché sta conducendo Italia's Got Talent, Je t'aime non plus perché adesso è di moda sul video hard che sta girando in rete, e l'ultimo indizio sarebbe stata l'Argentina, per cui l'avreste indovinato. Mi dispiace, niente da fare. Grazie Gaetano, ciao. Mi dispiace davvero perché eravate lì a 2 passi e invece niente, che peccato. Vabbè, continuiamo qui dalla Borsa Internazionale del Turismo, tra poco Alessio Maurizio con Si può fare, poi c'è la Rosa Purpurea in diretta qui dal Padiglione 3, veniteci a trovare. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Stefania Tagliaferri lì nei nostri studi, a Franco Piantanida che invece è qui alla Bitta, Pietro Lacorte in regia, non so che ci sia a Milano onestamente, forse c'è Camillo Lauricella, ecco che saluto, grazie e a voi, ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10 con Il riposo del guerriero.